Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di Economia del lavoro, un libro di cui è appena uscita l'edizione italiana. Il libro è di Georg Borjas, un docente all'Università di Harvard, ed è stato, direi, non solo tradotto, e vedremo come mai, in italiano da Alessandra Del Bocca, Daniela Del Bocca, Lorenzo Cappellari ed Alessandra Venturini. Abbiamo con noi Alessandra Del Bocca, buonasera. Alessandra Del Bocca è professore di economia, di politica economica all'Università di Brescia, e abbiamo con noi anche Daniela Del Bocca, professore. Buonasera. Buonasera, professore di economia all'Università di Torino. Non è solo un'omonimia, possiamo rivelare un segreto, siete anche sorelle. Allora, iniziamo da Alessandra Del Bocca. Come vi è venuta l'idea di portare in italiano questo libro? Perché è importante questo libro? Beh, più che un'idea è stata una necessità. Avevamo bisogno di qualcosa che servisse ai nostri studenti per dare un insegnamento chiaro, semplice, omogeneo, coerente, e avevamo solo un testo americano che quindi metteva uno schema magnifico, limpido e semplice, però al servizio di istituzioni diverse dalle nostre. E allora abbiamo usato, e non sempre, ma insomma adattato anche il suo schema alle nostre istituzioni, alla nostra cultura, alle nostre leggi e direi anche all'Europa, perché il nostro confronto rimane con l'America, ma rimane anche con gli altri paesi europei. Quindi è un libro completamente nuovo, che ha come base il testo americano, però anche come dimensioni probabilmente è cresciuto rispetto all'originale. È cresciuto, diciamo che abbiamo tolto moltissime cose troppo americane, o per via delle istituzioni o perché la teoria era troppo intrinsecamente applicata alle istituzioni, e abbiamo in pratica aggiunto un 30% in più nel libro, quindi c'è proprio di più, c'è più l'Europa, c'è tanta Italia e c'è questo lavoro di adattamento. Ecco, ma Daniela Del Bocca, visto da un profano, il mercato del lavoro americano e quello europeo e quello italiano soprattutto appaiono due mondi molto distanti, invece hanno molti elementi in comune? Hanno senz'altro degli elementi in comune. Noi quello che abbiamo cercato di fare in questo lavoro è di espressarne anche le differenze, perché questo è quello che servono agli studenti per cercare di capire come una visione del mercato del lavoro, come quella che è presente in molti testi, è una visione del mercato del lavoro che dipende molto dalle istituzioni. Quindi abbiamo cercato di far capire ai nostri studenti come quello che loro vedono sul mercato del lavoro e quello che loro studiano, le teorie dipendano anche dalle istituzioni. Quindi, per esempio, per l'Italia abbiamo cercato di far entrare in modo non solo analitico ma anche empirico, portando dati, portando evidenza, quello che è importante per far funzionare il mercato del lavoro italiano, che è anche la famiglia, per esempio. E quindi abbiamo analizzato il rapporto genere-famiglia-mercato del lavoro, che è abbastanza trascurata in molti volumi e che qui c'è a livello teorico, però c'era molto poco a livello empirico. Quindi questa è stata una parte che abbiamo cercato di fare anche a livello molto trasversale attraverso i vari temi, per esempio l'immigrazione, per esempio il capitale umano. Ecco, c'è per esempio una pagina di questo libro curato proprio da Daniela Del Bocca in cui si pone la domanda: le donne lavorano davvero meno degli uomini? Qual è la risposta, Daniela Del Bocca? Sì, questo è un commento a dei dati comparati che fanno vedere che in tutti i paesi, se noi mettiamo insieme il lavoro familiare e il lavoro sul mercato di mercato, quindi il lavoro remunerato, vediamo che le donne e gli uomini lavorano lo stesso. L'Italia è l'eccezione in cui le donne lavorano di più degli uomini, perché le ore in più che fanno nella famiglia fanno sì che superino il fatto che gli uomini lavorano di più per il mercato del lavoro. Quindi è un'eccezione italiana ed è questo appunto uno dei, diciamo, degli aspetti, dei puzzle che volevo, che abbiamo cercato di far evidenziare in questo volume. Ecco, però il tasso di partecipazione femminile al lavoro in Italia è più basso rispetto agli altri paesi. È più basso, infatti questo puzzle riguarda il totale, perché infatti uno dei puzzle è proprio questo che abbiamo cercato di evidenziare a livello trasversale. In Italia lavorano le donne lavorano molto di meno che negli altri paesi, hanno meno figli e quindi uno potrebbe pensare che quindi sul piano del capitale umano c'è un grande investimento nei figli, nei pochi figli che ci sono. E invece andiamo a vedere nella parte capitale umano che i risultati PISA fanno vedere che l'Italia è uno degli ultimi posti, o comunque molto mal piazzata rispetto agli altri paesi sul piano proprio dei risultati scolastici, e la situazione sta peggiorando. Quindi c'è un grosso punto interrogativo, cosa che non funziona. Le madri non aiutano, postando a casa non curano abbastanza i figli, non li aiutano abbastanza. Ecco, quindi c'è un problema di regolazione, di regole, di politiche economiche anche che possono aiutare un maggiore equilibrio nel mercato del lavoro, che possono aiutare anche un po' quella lotta alla disoccupazione che resta comunque un fattore in questa fase soprattutto abbastanza alto, Alessandra Del Bocca. Sicuramente, e questo libro fa notare come la nostra disoccupazione è diversa da quella di tutti gli altri paesi europei e anche degli Stati Uniti. Abbiamo praticamente rifatto tutti i grafici che Borges faceva per gli Stati Uniti e ci abbiamo messo dentro tutti i paesi europei e l'Italia, e l'Italia e l'America sono contrassegnati in modo da far vedere che in pratica addirittura America e Italia per certi versi sono proprio speculari, hanno un andamento opposto, no? Ed era un po' la domanda che lei, direttore, faceva a Daniela. È proprio così che in verità, per esempio, noi abbiamo tantissima disoccupazione, la nostra disoccupazione che è stata tradizionalmente molto alta e che poi si è abbassata nel 2001-2002 per poi rialzarsi in questa fase di crisi, vede come principali protagonisti le donne, soprattutto giovani. Quindi se noi dovessimo dire chi sono le persone più colpite dalla disoccupazione, diremmo le donne giovani al sud. Quindi sud, donna e giovane, questo è la vera vittima della disoccupazione, ma in generale i giovani hanno un tasso di disoccupazione molto più alto delle altre componenti della forza lavoro. E poi la durata, noi abbiamo una durata di disoccupazione molto più alta, nel senso che i nostri ammortizzatori funzionano molto bene per certi aspetti, ma non altrettanto bene per altri, cioè sono capaci di aiutare una famiglia a rimpiazzare il reddito che si trova di colpo diminuito, ma nello stesso tempo non sono capaci a incanalare le nuove forze le giovani sul mercato del lavoro e a trasferire una competenza da un lavoro a un altro, cosa che invece l'Inghilterra è molto brava e l'America sta cercando di fare. Ecco, c'è una particolare interessante nelle ultime pagine, un appendice, c'è il sistema italiano di protezione del reddito e ci sono ben 13 misure, dal prepensionamento alla mobilità lunga, ai contratti di inserimento, alle pensioni di invalidità, alla disoccupazione speciale e così via. Non è un po' troppo questo armamentario contro appunto la perdita di reddito, e poi non è forse qualcosa che cerca di garantire un po' il reddito ma non garantisce la formazione di nuovi posti di lavoro, Alessandra Del Bocca? Assolutamente, e questo è una specie di foresta pietrificata di leggi e leggine che sono rimaste lì e che nessuno ha smantellato dopo averne fatto delle migliori, tipo dopo la legge Treu o anche dopo la legge Biagi. Non sono state smantellate istituzioni precedenti che fungono da doppione o anche da ombrella per situazioni che non sono facilmente verificabili, no? E quindi invece di avere una regola semplice, un sussidio di disoccupazione che garantisca e che aiuti a transitare da un lavoro all'altro e che garantisca per un numero congruo di mesi il rimpiazzo del reddito e che aiuti a cercare un lavoro, abbiamo tutte queste ombrella messe su situazioni particolari, alcune delle quali onestamente abbastanza inique rispetto ad altre. Ecco, allora per concludere, ci avviamo purtroppo a conclusione, Daniela Del Bocca, osservando il mercato del lavoro in Italia ci sarebbe bisogno di semplificare e di rendere più flessibile pur mantenendo delle garanzie di reddito. Sì, assolutamente. assolutamente, però come appunto diceva Alessandra prima, il problema è proprio quello di stimolare la formazione, perché è lì dove veramente noi siamo più indietro che negli altri paesi, cioè abbiamo la maggiore uscita dei giovani diciamo ricercatori di alto livello, brain drain, e più bassa entrata di capitale umano, quindi non incameriamo e facciamo uscire tutti i nostri migliori. Quindi abbiamo una situazione di assolutamente inefficienza da questo punto di vista. In cui sono più colpiti proprio i giovani e le donne. Certo. Ecco, in questa prospettiva poche soluzioni, da dove si può partire per cambiare qualcosa rapidamente, Daniela Del Boca? Ma sul piano del punto di chi sono proprio questi diciamo le vittime di questa crisi, senz'altro bisognerebbe cercare di stimolare la domanda di lavoro femminile e di non frustrare diciamo sul piano della discriminazione le donne, quindi per esempio cercare di migliorare la conciliazione lavoro-famiglia con dei congedi parentali che diano possibilità, a partire appunto della divisione del lavoro di cui parlavamo prima, in cui le donne lavorano più degli uomini a casa e molto meno fuori, cercare di riequilibrare proprio questo punto di partenza, che è poi quello discriminante di tutto il processo. Ecco, forse è significativo che a curare l'edizione italiana di questo libro, lo ricordo, di Georg Borjas, Economia del lavoro, Francesco Brioschi, editore, siano state tre donne e un uomo. Abbiamo avuto con noi Alessandra Del Boca, professore di politica economica all'Università di Brescia, e Daniela Del Boca, professore di economia all'Università di Torino, che ringrazio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. L'appuntamento per tutti è a sabato prossimo.